dove saranno? Chiede la elegia di chi non è più, come se fosse uno spazio in cui io ieri potesse essere l'oggi e l'anche e il tuttavia. Dove sarà, ripeto, la masnada che fondò in polverose strade sterrate ogni sperdute contrade, la setta del coltello e del coraggio? Dove saranno quelli che passarono lasciando all'epica un episodio, un mito al tempo, e che senza odio, lucro o passione d'amore si accoltellarono? Li cerco nella leggenda, nell'ultima brace che, come incerta rosa, custodisce qualcosa di quella plebe valorosa, dei Corrales e dei Balvanera. Quali oscuri vicoli o quale ermo dall'altro mondo abiterà la dura ombra di quella che era un'ombra oscura? Murana, quel coltello di Palermo e quel terribile Iberra di cui i santi si impietosiscono, che in un ponte della via uccise suo fratello il nato, che dovea più morti di lui, e così uguagliò i tanti? Una mitologia di pugnali lentamente si annulla dimenticata. Una canzone di gesta si è perduta in sordide notizie criminali. C'è altra brace, altra incandescente rosa nella cenere che li serba interi. Là stanno i superbi accoltellatori e il peso della spada silenziosa. Benché la spada ostile o quell'altra spada, il tempo, li persero nel fango, oggi più in là del tempo e della sciagurata morte. Quei morti vivono nel tango. Nella musica dimorano, nell'arpeggio dell'indomabile chitarra laboriosa che intreccia nella miniloga gioiosa la festa e l'innocenza del corazzo. Gira nel vuoto la gialla ruota di cavalli e leoni e odo l'eco di quei tanghi a Rolas e di Greco che ho visto ballare sulla strada. In un istante che oggi emerge isolato, senza né prima né dopo, mai dimenticato, e che ha il sapore del perduto e del recuperato. Negli accordi ci sono antiche cose, l'altro cortile e la nascosta orditura. Dietro pareti sospettose, il sud custodisce un pugnale e una chitarra. Quella raffica, il tango, quella diavoleria, gli anni affannati sfida. Fatto di polvere e tempo, l'uomo dura meno della leggera melodia che solo è tempo. Il tango crea buio, passato, irreale, che in qualche modo è certo. Un ricordo che non può essere distrutto lottando in un cantone del suburbio. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida, terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Oh, buonasera. Cos'era questo? Oh. Una trasmissione che inizia in maniera. Cos'era questo bellissimo pezzo che stavamo ascoltando? Allora, chiediamo direttamente a Marianna Menzione, allora, no? Buonasera, Marianna. Buonasera. Questo era Mi Buenos Aires Querido, cantato da Carlos Gardel, diciamo il mito del tango. E è un brano che parla appunto dell'amore di questa persona per la sua città, e che si rifà un pochino allo stesso discorso della poesia che hai letto, il tango di Borges, in cui, diciamo, per tutta la poesia si parlava di quello che, vabbè, era il coltello, comunque il barrio, l'arrabal, cioè i posti e le cose più popolari del tango al tempo in cui è nato. E così ci sono molti tanghi come questo di Carlos Gardel che trattano appunto di questi argomenti. Il tango, cos'è che infiamma ancora nel tango, nell'uomo moderno? Appunto, cos'è che infiamma ancora nell'uomo moderno? Il discorso è lungo, cioè da una rappresentazione come questa che abbiamo fatto ora leggendo Borges, ascoltando Gardel, che è uno specchio di una società, quella argentina, che è nata insomma più o meno all'inizio del Novecento fino a oggi, il tango ha accompagnato l'evoluzione dell'Argentina di sicuro, compreso un periodo in cui non è stato possibile né ascoltarlo né ballarlo, che è il periodo della dittatura, in cui era vietato. Il fatto che continui oggi lì come specchio di una società, quindi anche col tango elettronico, che è un tango nuovo che vede orchestri giovani e giovanissimi, anche di ballerini giovani e giovanissimi, ma si intende che c'è un locale a Buenos Aires che si chiama La Viruta, che ogni sera vede un migliaio di ragazzini tra i 13, 14, 15 anni che sgambettano come se fosse un pub moderno. Col tango moderno. Ma infatti, diciamo, è una musica molto coinvolgente il tango, tipo i Gotham Project, questi gruppi, sì, qua che sono. Questi sono gli ultramoderni, sono proprio quelli di ora. Quindi ancora oggi continua a rappresentare la società argentina. Quindi in Argentina si può anche capire perché esista ancora, perché sia diffuso a macchia d'olio in tutto il mondo, compreso a Pisa dove si balla tutte le sere. Questo è un altro discorso. Evidentemente c'è qualcosa di molto più profondo che non è legato alla rappresentazione della società, che passa attraverso questa musica e anche attraverso il ballo. E allora lasciamoci trascinare dalla musica e iniziamo questa serata con di nuovo un pezzo. Che cosa ci ascoltiamo adesso? Ma io ancora metterei un brano un po' antico, di quando ancora non è il tango di oggi, quindi è ancora quella chitarrina, che è La Comparsita di Roberto Firpo. Cioè ancora un brano molto primordiale, in cui si ballava con gli strumenti che si potevano portare per strada, quindi la chitarra, il flauto, mentre dopo si passerà a pianoforte, bandoneon, insomma cose più stabili nei locali. Thank you. diretta. Pronto? Sì. Questi sbalzi di tensione, cali di tensione. Allora Marianna, diciamo che questa musica ci sta calando in una situazione anche qui un po' così. Beh, questa era vecchia, quindi era proprio si per sentiva far anche sentire... dalla registrazione, sì, un vecchio disco scricchiolante. Sì, io avevo preparato un po' una scaletta, diciamo, da ieri a oggi. Comunque tu mi chiedevi perché oggi si balla il tango. Allora, una delle ragioni forse è, adesso qui la prendo un po' comica, diciamo, facendovi sentire il prossimo brano. Perché nel tango forse si ritrovano anche alcuni ruoli che in qualche modo nella nostra società moderna si sono un po' persi. Cioè nel tango l'uomo è l'uomo, la donna è la donna, sembra di brutto dirlo così, ma il macho. No, non è il macho. Però è vero che c'è un uomo deciso, perché il ballo del tango è molto sensuale, la donna no però l'uomo porta, penso sia uno dei balli più sensuali che conosciamo. Quello il tango, sì, dai, quello sicuramente. Però diciamo che una cosa è vera: l'uomo porta e la donna segue. In questa cosa. No, ma anche il portamento proprio che dà quest'idea. Ora io forse ho usato un termine un po' abusato, però comunque questo uomo autoritario, insomma, che c'ha un po'. C'ha questa immagine, no? Poi, sì, l'immagine però è un po' stereotipata. La verità sì, stereotipata, però. È che per ballare bene, far ballare bene una donna, bisogna capirla, bisogna guidarla, ma bisogna anche seguirla. Quindi soprattutto c'è questa simbiosi. Bisogna sentirla. C'è un uomo che balla per se stesso non potrà mai far ballare bene una donna, deve sentirla. E quindi ci vuole, c'è anche un grosso aspetto in effetti poi di generosità e altruismo che non tutti gli uomini sostengono. Molto comunque, passionale il tango. Un tempo probabilmente era molto più macista, e quindi c'è un brano che si chiama Si Soi Assì, che fa abbastanza ridere perché è, insomma, un po' autoironico, che dice che dovunque io vedo una gonnella di chiunque sia, una sposata o non sposata, per me sono tutte pere dell'albero dell'amore, e la guardo corteggiandola per la strada e non posso fare a meno di sottrarmi. Sono nato così, sono nato per corteggiare le donne. Soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y embalado para el querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza que algún día me toque la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a serte infiel. Donde veo una pollera, no me fijo en el color. La viudita, la casada, sos soltera. Para mí todas son peras en el árbol del amor. Y si las miro coquetonas por la calle, con sus ojos tan porteños y su talle sin breador, le acomodo el camuflaje de un piropo de mi flor. Sei così sfiduciata nei confronti del nostro regista DJ? No, non sono sfiduciata, ho detto solo mixare, no, non lo mettete a mixare le canzoni, per favore. Ma ce lo vedi in un locale, tu ti balla del tango e Gianluca che gli manda la musica così, eh? Sì. Tutta così ricercata. No. Allora, questa canzone, Marianna, come avevi detto, allora, anticipato prima, diciamo un po', è un po' la mia canzone. È la canzone di tanti uomini, diciamo. Di tanti questa uomini che si riconoscono in questo. È una canzone al contrario, è una canzone di un uomo innamorato, particolarmente un waltz, cioè non è un tango, perché nel tango, sia cantato che scritto che ballato, esistono tre ritmi: tango, milonga e waltz. Il waltz assomiglia un po' al nostro valzer. Questo è un valzer e si chiama Quando stavo innamorato, cioè quando ero innamorato, e parla della follia di un uomo innamorato che non mangia più, non dorme più, non fa più niente, che a un certo punto riprende Pigliate a mangiare, riprende a mangiare, a vivere, e finalmente ha ritrovato un amore, perché ogni giorno che passa la cosa è buona, è che nasce un nuovo amore. È molto simpatico come canzone. Vai DJ. Vai DJ. Engaño atroz, hay que ver lo que he llorado, de pensarlo causa horror. Mi familia se creía que me iba a enloquecer y que nunca olvidaría el amor de esa mujer. No comía, no dormía y el dolor me consumía. Ahora como, ahora duermo, ahora canto todo el día. Siempre la vida fue así, hoy lloramos un amor y mañana nace otro que será mucho mejor. La vita comincia ogni mattina con un nuovo amore, eh? Ma è sempre così allegra la vita, no, del tanghero. No, non solo non è allegra la vita del tanghero, ma non sono allegri i tanghi. Ora ne ho scelti un paio per non entrare subito nel dramma, un po' allegri. Ma come diceva Borges, secondo lui, per dar voce al tango bisogna entrarci con lo stato d'animo di chi ha appena perso il più grande amore della sua vita. E in effetti è così, cioè il tango nasce come un'operazione nostalgica, nostalgica di chi era immigrato rispetto al proprio paese, nostalgico di chi partirà da Buenos Aires e quindi sarà, gli mancherà questa terra, Buenos Aires, nostalgico per un amore non avuto o non concluso, perché durante l'immigrazione il 70% erano uomini, il 30% donne, e quindi avere una donna era difficilissimo. E quindi erano uomini molto disillusi e molto feriti, insomma. Quindi ci sono poi, adesso ascoltiamo un brano che si chiama Ninguna, che è un brano bellissimo, che dice che non ci sarà mai più nessuno uguale a te, nessuno mai più con il colore della tua pelle che sembra una magnolia, e che quando te ne andrai tu tutte le altre moriranno. Questo è il senso, cioè sono canti d'amore e poesie bellissime. Sia la musica che le poesie che vengono scritte per il tango, in realtà dagli anni 30-40 sono una musica e una poesia molto molto colta, cioè rispetto a quello che abbiamo ascoltato ora, che magari era un pochino più popolare. Più popolare di strada, dopo diventa veramente una musica colta, entra in salotti colti di Buenos Aires, di Parigi, dell'Europa in genere, si trasforma in un ballo anche alto locato, e diciamo veramente cominciano a toccare le corde dell'anima, un po' di chiunque. Thank you. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Una collezione favolosa, Marianna, che mi stava dicendo qui fuori dalla diretta, grazie per l'apertura così improvvisa, che ha più di 20.000 pezzi. Sì, sì, io sono solo una piccola parte di quelli che esistono, ti ho detto, veramente poi diventata tra gli anni 30 e 40. Dove sei andata a scavare per trovare tutti questi brani? A Buenos Aires, ci sono stata. Ah, sei stata proprio a Buenos Aires. Sì, io sono andata a imparare lì per insegnare. Al Museo del Tango. Ma che Museo del Tango? Diciamo che è il paradiso del tanghero. Cioè, paradiso del tanghero. Sì, io quello che volevo dire prima, infatti, e poi alla fine, a parte gli scherzi, che è così per fare un po' un excursus, però secondo me il motivo per cui oggi si balla il tango è che il tango è un innamoramento e questa è una cosa, diciamo, universale. Non tutti si innamorano del tango, cioè io me ne sono innamorata quando l'ho vista a Parigi, l'ho ascoltato per caso e così ha toccato le corde un po' della mia anima. Che significa innamorarsi del tango? Cioè, sposare un po' tutto il significato dietro, oppure viverlo così a livello passionale, no, o è proprio un innamoramento. È un innamoramento. Quindi significa che come, cioè, non so qual è, cioè, l'altra parola per descrivere, non so, quando uno guarda negli occhi tutti i giorni una persona e tutti i giorni si emoziona. È innamoramento. Lo stesso è col tango. Cioè, io a volte sono lì in sala che ballo, guardo ballare. E ascolto un brano e dico, ma questa è la 10 milionesima volta che io lo sento, è 10 milionesima volta che mi emoziona, ed è sempre lo stesso, e tutte le sere lo ballo e tutte le sere lo amo. Quindi non l'amore è infinito. È un amore, infatti, cioè, è anche una follia, nel senso che uno dice, vabbè, imparo il tango, e poi si ritrova a ballarlo tutte le sere, tutte le sere, comincia ad andare a Firenze, poi comincia ad andare a Padova, e poi comincia a seguire le maratone o i festival in giro per l'Europa, e poi prende un aereo e va a Buenos Aires, e ci resta un mese, e poi ci dà una persona. Quindi, cioè, è un innamoramento. Io credo che sia un innamoramento verso la musica, cioè, questa musica ti deve toccare l'anima, cioè ti deve corrispondere, è una musica melanconica, è una musica molto romantica, le parole non ne parliamo, e poi è un innamoramento verso l'altro in generale, nel senso che comunque è un ballo abbracciato, abbracciatissimo, abbracciato stretto, spesso con una persona sconosciuta, e questo è anche il suo bello, quindi è uno scambio fra due, quindi se te non sei una persona predisposta o non lo sapevi, magari lo scopri con il tango, io non lo sapevo di essere una persona predisposta ad accogliere l'altro, a sentirne, a emozionarmi, a scambiare queste cose diciamo, in maniera ignara, perché non sai mai quello che succederà, certo, quando cominci a ballare con una persona che non conosci. Marianna è proprio innamorata del tango, perché si emoziona anche adesso. Io vedo, proprio sento le vibrazioni, questo è molto comunque, positivo. Secondo me, se la domanda che perché si balla oggi è perché è un innamoramento e non è razionale, ed è il motivo forse per cui veramente in tutto il mondo lo si balla. Continua così. Il mito, insomma. Sì, ed è, continua ad essere una cosa sociale, cioè... è un qualcosa che... Parlaci un po' del movimento a Pisa che c'è di queste serate. A Pisa si balla tutte le sere, se volete wow. Ve l'elenco. Dove? Allora, si balla il martedì al Milonghetto, che è a Putignano. Il mercoledì si balla al Circolo Cavallino Rosso, che è a Pisa. Il giovedì si balla alle Repubbliche Marinare, che è davanti al Media World a Pisa. Il venerdì si balla in diversi posti, tra Pisa, Lucca e Livorno. Il sabato ugualmente è un po' a rotazione. Perché ormai ci dobbiamo anche mettere d'accordo su chi fa il venerdì questo, chi quell'altro, perché ce ne sono troppe. Come si e la domenica si balla tutti i pomeriggi al Globo Verde a Pisa. Come sono queste serate? Le serate sono serate come forse erano le vecchie serate di liscio prima che iniziassero le gare dei nostri nonni. Ci si veste più o meno bene, ci si fa bellini, le donne si fanno femmine, gli uomini si fanno carini. Si va, si paga un biglietto, si entra, ci si siede qui in maniera abbastanza scomposta, cioè ci si è dove ci si siede. A Buenos Aires invece la gente è divisa fra uomini e donne, e l'uomo, diciamo, inizia nei brani e l'uomo invita una donna, prima una, poi un'altra, la donna accetta o non accetta, e si balla così tutta la sera. Ah, c'è anche questa ritualità del... Sì, l'uomo invita la donna. Però l'uomo invita la donna. Com'è l'invito? Con un inchino? Allora, nella maniera più gritta, uno si alza, va lì, viene lì e ti fa oh, balli. Oh, balli. Ma come? E a te ti casca tutta la poesia. La magia. Se invece è un pochino più, insomma, avvezzo alla cosa, lo fa con la cosiddetta mirada o caveseo, cioè con lo sguardo e un gesto della testa. Cioè ti guarda dall'altra parte della anche pista. Anche questo è un po' però, insomma. No, tu se vuoi in realtà l'hai guardato e sai che ti vuole invitare, quindi si incrocia lo sguardo e lui ti invita e tu fai un gesto e dici va bene. Quindi lui si alza da dov'è, ti viene a prendere al tuo posto perché potreste, magari aveva invitato quella dietro, te non te ne eri accorta, hai detto di sì ma era un'altra. Quindi tu l'aspetti seduta, così sei sicura che sei senza te. Senza dare cenni. E quando vieni davanti a te ti alzi e balli. Questa è la teoria, poi in realtà insomma... Quindi non lo sapesse e lancia come una cosiddetta sfanalata e non vede movimenti, potrebbe anche pensare che ci sia un rifiuto. E se la donna rifiuta, come... La donna, se non vuole essere invitata, non guarda. Guarda in terra. Sì, guarda un'altra parte, chiacchiera con l'amica, insomma. Indifferenza. Vabbè, questo rituale mi piace, devo dire, Gianluca. Che ne pensi? No, è vero, a me piace proprio la dialettica che si crea fra i due opposti, no? Perché poi la donna in realtà e l'uomo sono entrambi... hanno entrambi la parte opposta, no? La donna è anche uomo, l'uomo è anche donna. C'è questo concetto nel tango, se non sbaglio, da quel poco che ho letto, c'è questa concordanza di anime che poi... Sì, diciamo che no, l'uomo è l'uomo, la donna è donna, ma quindi uno porta e l'altro segue, questo è importante, cioè, senso, c'è però c'è un incontro, cioè un uomo che balla bene, un uomo che balla per la donna, e se invita una donna, non so, me che sono romantica, piuttosto che un'altra che invece è una super energetica, deve rendersi conto di chi ha davanti, deve ballare anche per lei, quindi adattare il suo ballo, trovare una consonanza fra lui e lei. Quindi, per questo che ogni ballo magari è magico, è nuovo, è un incontro fra due persone. Un uomo che balla per te stesso o sempre uguale non è un uomo che sa ballare, per quanti passi sappia fare. Certo. Domani mi uccidono in Milano. Chissà a casa cosa diranno. Aiuto. Tutti questi uomini, questi ballerini tangheros pisani. Chissà cosa staranno pensando. Oltre il ballo si può andare a scuola dovunque, diciamo. Certo. Ci sono tantissime scuole. Quanto ci vuole imparare il tango? Allora, per chi, diciamo, è proprio... A zero. Allora, diciamo che per una donna è molto più semplice, perché seguire... Quantomeno per ballare, per invitare una donna a ballare, insomma, avere questa Senti. Chance. Allora, le lezioni sono una volta a settimana, quindi diciamo che all'inizio sono... cioè, dovrebbero essere di più, perché in una settimana magari ti scordi anche... Però se uno comincia a andare a scuola, comincia ad andare alla pratichetta, comincia a provare con l'amica, così, quindi insomma pratica un po', velocizza. In media ci vuole, insomma, in realtà da me io li faccio ballare subito, cioè li butto subito in pista, non voglio che soffrano di non poter ballare, però per ballare decentemente un annetto ci vuole per un annetto uomo. Per avere... Nel mio caso mille. No, no, nel caso delle donne ci vuole pochissimo e questo è un grande scatto. La donna si abbandona al suo tagheros. È comunque più facile. Cioè, se tipo posso alzare i piedi e mi portano loro, sì. Sara, ti legano i piedi agli stinchi così l'uomo balla e infatti, ti trascina. Penso sia l'unica alternativa. C'era un artista che faceva metà era vestito da donna, metà da uomo e ballava il tango. Non so se vi ricordate. Sì. Eri tu? No, non era Gianluca. No, se io ballassi il tango sarei un tanghero più che un tanghero, perché proprio... Ma forse più io, Ma non è vero, gli uomini dicono tutti così all'inizio, quando non hanno già un percorso di ballo, gli sembra impossibile perché sentono duri, il corpo duro, il corpo che non reagisce, ma è una questione di allenamento. Quindi cioè, fondamentalmente mi stai dicendo che io sono un uomo. No, no, no, no, no, no. Comunque è sempre una sorpresa, cioè il tango è una sorpresa, un po' per quello che può... E vai, ci ritroveremo tutti a una serata, Gianluca, a fare dei cenni col capo, delle occhiate, per cercare di ballare il tango. Ah, comunque, se volete venire, io dal prossimo mese inizio i corsi, quindi prenderemo in considerazione questo. Lasciaci due contatti a proposito. Fai ecco, brava, come se qualcuno all'ascolto volesse iniziare a fare qualcosa col tango, ballare il tango. Se vuoi iniziare a fare qualcosa, gli tornano bene i giorni e i luoghi. L'hai detto prima, insomma, quelli fissi che sono il martedì, il mercoledì. Quelle sono le serate di ballo. Di ballo. Le lezioni sono tante scuole. La mia è lunedì e il mercoledì, il lunedì al Caracol a Pisa e il mercoledì al Cavallino Rosso. Si può trovare tutto sul mio sito che è www.mariannatango.com. mariannatango.com. Sì. Ci saranno due settimane lezioni di prova ora, le ultime due di settembre, gratis, e poi a ottobre cominciano i corsi. Ecco, interessante, per chi volesse provare senza impegno, sono anche due lezioni gratis. Allora, secondo me non si può andare via da una trasmissione di tango senza aver ascoltato un brano di pugliese, almeno uno che è un grandissimo autore, veramente che ha attraversato fra un po' tutta la storia del tango. Lomareados, e dopodiché ascolterei magari un brano moderno, moderno, moderno, simpatico che dopo vi descrivo. Ok, vai regia. Thank you. È bellissimo, ma che cos'era? Questo era Lo Mare Adosso di Osvaldo Pugliese. Si sentono gli applausi di sottofondo, perché questo è un momento storico per la storia del tango. Cioè, Osvaldo Pugliese, che è stato un grandissimo compositore, direttore d'orchestra, che ha una produzione immensa di tango, era comunista. E come tale, durante la dittatura, insomma, comunque ha avuto molti molti problemi. E questo è il momento in cui è potuto tornare al Teatro Colón, che è il teatro di Buenos Aires, ed è stato accolto con un'ovazione incredibile da parte di tutta la gente di Buenos Aires. E quindi, diciamo, un momento molto emozionante. Ci sono anche tutte le introduzioni a questo momento del Teatro Colón in cui lui parla, insomma, molto molto bello. Comunque io passerei, visto che siamo verso la fine, a quel tango di oggi, quindi il tango elettronico, il tango dei gruppi moderni. E c'è un brano che a me sembra geniale, veramente molto bello, che è De Demoliendo Tango, che si chiama Pelliculas, che è un insieme di brani tratti da colonne sonore di film famosi riadattate a tango. E quindi sentiamo questo pezzo. Devo dire che Marianna ha esposto questa sera queste cose, come possiamo dire, trasmettendoci un'emozione che era anche scritta nel suo volto e nelle parole. Spero che anche voi a casa abbiate avuto questa sensazione. E dopo chiuderemo con i saluti e ci sarà un'intervista in chiusura a un grande videoartista italiano, Alessandro Amaducci. Adesso cercheremo di metterci in contatto con lui e parleremo anche della sua videoarte. Ma intanto cerchiamo di capire perché il tango è definito patrimonio dell'umanità. È definito patrimonio dell'umanità perché appunto rispecchia anche una nazione intera, e anche, come ho detto prima, per la sua complessità a livello artistico, a livello musicale. E aspetta che non troviamo il brano che avevamo scelto. Allora, magari cerchiamolo su internet, se no. Pelliculas de Demoliendo Tango. Pelliculas. Eccolo qua. Non si trovava. Dove aveva detto Carlos? Vedi Carlos? Carlos perché si chiama Carlos. Carlos. No, Carlos. Okay. Ok, ascoltiamo allora. Non è questo. Allora, scusate un attimo. Dai. Scusate. Mamma mia, scusate. Con le mani incrociate. E vai. Thank you. che dire, emozionante. Il tango scatena passioni. Ce n'è di tutti i gusti, ragazzi, del tango, dal 1916 a oggi, veramente ci vorrebbero 14 puntate. C'è la tristezza, la malinconia, però nello stesso tempo c'è la speranza, non lo so, qualcosa di strano che io non conoscevo prima d'ora. C'è la capacità di trasmettere una tristezza che però va al di là, no? di un semplice impasse esistenza. È proprio è un tramonto. È come la vita, cioè, sì, esatto. Nonostante la tristezza va avanti. Certo. Come l'Argentina, nonostante le sue catastrofi va avanti. Certo. Così il tango. E lo esprime. Bene, io direi di chiudere questa parentesi sul tango con l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo, sempre modernissimo, Oi dei Bacofondo. Vai, Giambo. Grazie ragazzi. Prego. Torneremo a parlare di tango. È questa, vero? Sì, è questa, è questa. Allora ci salutiamo con Marianna e speriamo di rifarne un'altra come questa, no? Volentieri. Magari approfondendo anche altre cose. Certo. Oggi abbiamo soltanto sfiorato il mondo del tango. Volentieri. Le chotraves casi sin ver, envuelto en una densa nube de emoción, perdió su olor y aquel sabor de las mañanas de una vida que venció. Rieccoci di nuovo in studio, alla fine della nostra trasmissione, quasi in chiusura, abbiamo in diretta un video artista, Alessandro Amaducci, che gradirei sentire la sua voce. Pronto? Pronto? Pronto, Alessandro? Pronto? Ma deve essere caduta la linea, ci rimettiamo subito in contatto con lui. Intanto vi anticipo che ha realizzato tantissimi video e ha partecipato anche a in manifestazioni internazionali, anche il compositore delle musiche, stiamo guardando il suo blog alessandromaducci.net, dove è possibile vedere dei video e anche conoscere queste prospettive. Direi, Gianluca, intanto di passare un po' di musica mentre cerchiamo di rimetterci in contatto velocemente con lui e ripristinare l'intervista. Dovremmo aver ripristinato la linea con Alessandro Maducci. Pronto? Pronto Alessandro? Ma non lo sentiamo. Pronto? Pronto? E non funziona, c'è qualcosa che non va. Vediamo se abbiamo ripetuto la diretta. Pronto? Pronto? Oh, finalmente! Era il telefono difettoso. Meno male che appunto radio ci hanno donato anche un altro telefono, quindi siamo, siamo fortunati. Allora, Alessandro, come va? Bene, benissimo. Allora, Alessandro Maducci, oltre ad essere un professore, è anche un video artista molto noto e apprezzato. Scusate la nostra ignoranza, ma io non lo conoscevo così bene. Mi sono un po' documentato, insomma, ho visto che realizza questi video. Mi stavi dicendo anche fuori dalla diretta che parlano, cioè sono dedicati al corpo, insomma, ruotano intorno alla figura del corpo. Sì, diciamo che il tema generale di questi, di quest'ultima antologia di video che sto facendo è l'idea del corpo, cioè di come adesso le nuove tecnologie abbiano cambiato, stiano cambiando la nostra idea del corpo e come questa idea del corpo tecnologica vada a scontrarsi, a incontrarsi con le idee del corpo che si sono succedute nei vari secoli di storia dell'arte, dalle origini fino ad oggi, insomma. Quindi diciamo un corpo trasformato dalle tecnologie, ma è un corpo come più efficiente, un corpo più bello? Ma guarda, sì, guarda, secondo me il discorso sulla bellezza è lungo e complicato, ma lo farei, nel senso che in qualche modo le nuove tecnologie nel bene e nel male possono conferire una nuova bellezza, che poi il termine bellezza sia un fattore puramente formale e estetico è un'altra questione, nel senso che possono anche essere corpi ferocemente belli, perché innestati di tecnologie e di cose fanno un po' paura, insomma, incutono un po' terrore. È orribilmente bello, nel senso che certo, anche le cose orribili possono essere belle. Meravigliose, cioè nel loro aspetto più determinante. E sì, quindi che stupiscono. A chi si rivolgono i tuoi video? Ah, che piacciono. Non c'è una, diciamo, un obiettivo particolare, insomma. Ma guarda, in realtà sono diretti a un pubblico che io immagino più o meno come me, cioè che abbia i miei gusti. Io sono una persona che è cresciuta guardando fumetti, film, andando anche alle gallerie d'arte e vedendo cose di livelli anche molto diversi, persone affascinate sia dal top dal lato che da cose magari più sperimentali, più complicate dall'altro, per cui il filo costante dei miei video, soprattutto ultimamente, è un riferimento a un certo tipo di fantascienza e, se vuoi, anche a un certo tipo di horror, coniugati però in un modo non commerciale, diciamolo così. Per cui, che ne so, a un fan di Cronenberg potrebbero piacere i miei video. A me Cronenberg piace e mi piacciono anche i video che faccio, quindi magari il riferimento può anche essere quello. Cioè, difatti ora lui mi chiedeva di farti una domanda, io ho pensato subito a Cronenberg mentre guardavo questo video. Ecco, ma allora il corpo mutante è una realtà oppure a un certo punto ci sarà qualcosa di diverso rispetto al corpo mutante? Cioè, c'è un limite alla trasformazione del corpo in macchina o è una fase? Ah, io credo che sia una fase, poi al di là, come dire, degli effetti speciali, no? Anche alla Tetsuo di Tsukamoto, al di là del fatto della possibile trasformazione fisica del corpo, secondo me noi mentalmente abbiamo un'idea del corpo che è completamente diversa dall'idea del corpo anche semplicemente di 50 anni fa. Internet e le nuove tecnologie della comunicazione in qualche modo ci spingono a pensare il corpo in una maniera diversa, per cui secondo me siamo già tecnologici, semplicemente usando gli strumenti che stiamo usando adesso, da Facebook a Skype. Alessandro, dicevo, ma quanto di virtuale c'è nel tuo corpo, nel corpo che immagini? Nel corpo che immagino, in realtà la virtualità è già dentro al corpo, nel senso che ad esempio nei miei video spesso c'è uno sbalestramento fra corpo reale, cioè figure reali che io riprendo con la telecamera e figure invece fatte in computer grafica 3D. Le immagini fatte con computer grafica 3D sono l'esatto, come dire, concretizzazione di un'idea del corpo che non esiste, che sicuramente è più perfetta, efficiente, eccetera. Io credo che noi stiamo tentando e andando da quella parte. Ma secondo te bisogna ritornare a una liberazione dei corpi attraverso la macchina o la macchina serve a farci da scudo, diciamo, a questa aggressione che subiamo continuamente dall'esterno rispetto al corpo? Ma io credo entrambe le cose, nel senso che io credo che comunque sia questo, il fatto che stia succedendo questo in questo secolo, cioè la meccanizzazione del corpo, probabilmente un po' ci libererà da alcune idee del corpo che avevamo nel passato, e poi comunque si potrebbe anche trasformarsi in una prigione, per cui probabilmente dovremmo poi liberarci di questa cosa per passare avanti, per andare oltre. Intanto in sottofondo stiamo ascoltando anche la musica di Shedding, che è composta anche da te, come tutte le musiche dei tuoi video, giusto? Sì. Quindi vabbè, quella è... Prego. Scusami, quella è il fatto di fare un po' tutto io, cioè di curare anche le musiche, è una cosa recente, nel senso che vabbè, in passato io ho suonato in alcuni gruppi musicali, ma cose senza particolare serietà, e adesso bene o male il computer mi ha avvicinato alla possibilità di gestire anche in toto la parte musicale, per cui questa è una cosa che io trovo molto interessante. Tra l'altro stiamo guardando questo video meraviglioso e invito tutti gli ascoltatori a segnarsi il sito di Alessandro, che è www.alessandromaducci.net, dove è possibile trovare tantissimi video e tante informazioni. Certo. Ok, vorrei che durasse di più, perché poi prima si parlava anche del tango, del corpo nel tango, e quindi a un certo punto si poteva anche siamo creare... passati da due situazioni direi molto distanti, però molto legate al corpo, certo, insomma, certo. E al linguaggio del corpo soprattutto. Un'ultima domanda: quanto può aver influenzato la presenza di Carmelo Bene, perché io sono un fissato di Carmelo Bene, in tutta la video art e in tutto il corpo e l'utilizzo del corpo con la macchina? Ma guarda, grazie per la domanda, perché comunque sia nelle cose che faccio, anche in tanta video art, se ancora vogliamo chiamarla così, che si fa oggi, c'è molto il teatro contemporaneo, molto il teatro sperimentale, dal Living Theater a Carmelo Bene. Diciamo che la liberazione del corpo degli anni 70, che si è vista in teatro, si è vista anche molta come dire, arte contemporanea sta diventando una cosa molto diversa, cioè in effetti l'arrivo delle nuove tecnologie ha cambiato anche un po' il gioco da quel punto di vista. Però Carmelo Bene, con le sue doppie pelli, no, a teatro spesso faceva questo gioco di togliersi una pelle per prenderne sotto un'altra, è interessante perché il discorso la macchina attoriale, no? Insomma, la tecnologia che amplifica la voce, che amplifica questa interiorità, cioè è potente, certo, certo, no, infatti la tecnologia è Carmelo Bene in alcuni spettacoli è quasi dentro al corpo, no? Già, e sicuramente è un tema molto attuale. Alessandro, dici un po', magari se è possibile oggi trovare qualche tua installazione in giro per il mondo o qualche festival dove hai partecipato, dici qualcosa. Perché passa da Roma in questi giorni alla Casa del Cinema, c'è un festival che si chiama Abstracta, dove ci sono 2 miei video in concorso. Il 16 e il 18 a Madrid c'è un altro festival che si chiama Optica, dove c'è un altro video, e poi, siccome siamo in zona toscana, il 22 ottobre a Lucca, al Museo Nazionale del Fumetto, ci sarà una grossa retrospettiva dedicata a un fumettista romano che si chiama Guido Buzzelli, ci saranno alcuni video di accompagnamento alla mostra fatti da me. Lucca è un appuntamento che è alla nostra portata, diciamo. possiamo anche venire. Ti volevo chiedere un'altra cosa: come si colloca la videoarte italiana nel mondo? Perché ci sono paesi all'avanguardia in quest'arte. Ah, guarda, è strano come tutte le cose, nel senso che ci sono anche personaggi di punta come Fabrizio Tessi o Studio Azzurro che sono importanti, anche molto quotati. Appartengono a una generazione, Fabrizio Tessi più quella degli anni 70, Studio Azzurro più quella degli anni 80, che secondo me hanno trovato una strada un po' più semplice, un po' più facile. Dopo di quella sembra che non ci sia più niente, ma ci siamo noi, insomma. Speriamo. Bene, portiamo avanti l'Italia anche nel campo dell'arte, dove diciamo spesso abbiamo primeggiato, quindi cerchiamo di mantenerci ad alti livelli. Complimenti. Ovviamente. Davvero Alessandro, Alessandro Maducci, per la tua bravura. Devo dire che i video che ho visto in questa giornata mi hanno veramente emozionato, quindi ti ringrazio, ragazzi. E ricordo a tutti www.alessandromaducci.net. Alessandro Amaducci, scusa, mi correggo. E vi invito appunto a seguire anche La Terra dei Cacchi mercoledì prossimo. E Gianluca, vuoi dire qualcosa? Salutiamo Marianna e il suo tango, che sì, ha detto tornerà. Marianna, salutiamo anche tornerà Alessandro. Mi piaceva questa accoppiata Borges, la poesia, Carmelo Bene, tango e la videoarte. E Alessandro Maducci e la videoarte. Soprattutto, cioè, mi si è creato tutto un minestrone positivo. Ma siamo un po' confusi, diciamo la verità. Alessandro, buonanotte e grazie per essere stato con noi. Buonanotte, grazie mille. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Come al solito freghiamo sempre dei minuti preziosi a Rockabilly Rap, ma loro sono qua per voi, il grande acidone psycho che legge le notizie del Tirreno ora per, non lo so per cosa, per forse per documentarsi, e tra poco grande musica rap hip hop con Rockabilly Rap. Ciao, alla prossima, La Terra di Cacchi. Ciao, ciao Mariano.